Ti racconto una storiella? Visse un paesetto su nelle Alpi. Doveva andarci un collega di mio marito, poi non, per motivi di salute non c'era andato, aveva affittato le case perché si affittano da un anno all'altro. Siamo andati noi. La sera della vigilia, il giorno della vigilia, passeggiavamo, abbiamo conosciuto, parlavamo io e mio marito italiano, un signore che parlava italiano. Ah, dice, io sono di origine italiana, anche mia moglie, e abbiamo fatto conoscenza. Poi a mezzanotte siamo andati a messa. All'uscita della messa ci siamo fermati, c'erano anche loro per salutarci, farci gli auguri, e faceva freddo e mio marito portava in testa un cappello, ma lui non portava mai i cappelli, e anche quest'altro signore, Bruno si chiamava, portava il cappello. Allora a un certo punto stava parlando di Roma, le bellezze di Roma, mentre parlava di questo mio marito si è tolto il cappello e lui dice, ha ragione, quando si parla di Roma bisogna togliersi il cappello. Amo. Termini. Sì, termini. Quella stazione grigia, cupa, però popolata da un'umanità così variopinta. Ci trovi di tutto. Attrici di seconda fila che fanno colazione alla boulangerie italiana e poi si imbarcano su un Frecciarossa. Backpackers, fricchettoni, sacco a pelo attaccato allo zaino, sporta della spesa con dentro birra e panino per un pranzetto leggero. Uomini in doppio petto che si lamentano degli affari mancati nel viaggio di lavoro nella capitale e sfoggiano il loro nuovo Rolex di fronte al mendicante che puntualmente a mezzogiorno si avvicina al bancone del bar implorando un panino al barista che ovviamente lo caccia, scusandosi con la clientela per il disagio. Io amo termini. Sì, termini. Quel minestrone di gente di corsa, rincorsa, seduta, impaziente, in attesa, sofferente, nulla facente, nulla tenente, il quadro perfetto di questo paese allo sfascio e alla rinascita! L'Intercity 4615 proveniente da Milano Centrale arriverà con 3 ore di ritardo causa guasto al treno, causa nebbia, causa suicida Firenze Campomarte, causa ladri di lamiera d'Orvieto. Ci scusiamo per il disagio. E mentre sul binario accanto il Frecciarossa delle 16:45 sta partendo puntuale, io mi sento a termini, fine della corsa del treno, fine del viaggio, fine del mondo, fine. Ma io amo termini, sì, e amo anche i negozi di termini, perché non sono troppo costosi. Quanto ho in tasca? 5 euro. 5 euro sono pochi. 5 euro sono davvero pochi. 5 euro sono troppo pochi. Con 5 euro non posso nemmeno permettermi di comprarmi quello che è shampoo. 5 euro! In offerta, ultimi giorni, fragranza, sandalo. Io detesto il sandalo. Ha quell'odore così forte che mi prende lo stomaco, mi fa venire la nausea e... Shampoo al sandalo. È un nuovo inizio. Lo sento. Lavoro 1. Io sono stata insegnante. E è assurdo dirlo, ma io credo di... Io, no, senza credo. Io sono nata insegnante. Però dentro di me il mio futuro lo sognavo già così. Quello che sto facendo, lo sognavo già così. Da piccolo. Per un mese e mezzo facevo questo lavoro, un pullman ferma, aspetti che arriva l'altro che va ad Ardea, a metà strada scendi e fai a piedi e strada facendo raccogli i ragazzini. Dopo un mese ho comprato il motorino. Allora, il motorino lo lasciavo a Cecchina, da Nettuno a Cecchina col pullman, poi prendevo questo motorino e la strada delle vigne. Puoi immaginare cos'era la strada delle vigne, con l'impermeabile chiuso. Tutto qua, e andavo, vento, quello che c'era, c'era. E arrivavo da questi bambini. A Parma, Bozzolo, Bozzolo Montichiare. Montichiare, per motivi di dormire, siamo andati a Cerea Mantova, su Zara Gualtieri, siamo arrivati. E anche in tutti i tempi, quando ero giovane io, in Italia c'era nel mio campo tantissimo lavoro. Poi è iniziato ad essercene un po' meno, però c'era il mondo, già l'Europa, c'era da vendere, c'erano paesi molto meno sviluppati dell'Italia. Terzo mondo, musicalmente terzo mondo. E adesso anche quei posterini sono non saturi. Il lavoro c'è tantissimo. In qualsiasi settore che uno voleva ci buttare c'era da lavorare. Di comprare, insomma, perdevo un lavoro, ne trovavi 5. Dalla sera alla mattina diventavi imprenditore. Andavi in banca, prendevi i soldi e compravi il terreno. Andavi in banca, prendevi i soldi e facevi la muratura. Andavi in banca, poi quando vendevo la banca scalzava. Cioè, l'imprenditrice era la banca, non era la persona. La differenza tra il lavoro di allora e il lavoro di adesso, a mio parere, era che allora si sceglieva il lavoro che si credeva andasse bene per noi. Oggi si sceglie il lavoro che trovi. Ma non lo so, consigliare è puntare in alto e provare a sognare, provare a, se hai qualcosa dentro che ti fa piacere fare, osare, chiedere, produrre, provarci. Faccio un giro intorno, crollare il mondo, ma non addosso. Poi come faccio? Faccio, taccio, mi ci impiccio e resto scaccio perché oggi ce la faccio. Trovo lavoro, poi taccio. Faccio, non mi lamento, la fila e non me ne dispiaccio. Che se poi mi pagano 2 monete, giuro che taccio. Faccio un giro intorno e crollare il mondo, ma non addosso, che poi come faccio? Faccio, taccio, mi ci impiccio. Il resto lo scaccio perché oggi ce la faccio. Francesca De Santis, nata il 26 maggio 1982 a Verona, domiciliata a Roma. Ho una laurea in management delle imprese multinazionali con specializzazione in marketing e distribuzione interstellare, conclusa con il massimo dei voti, lode e bacio accademico. Mi sono fermata alla laurea triennale in economia aziendale. Perché cosciente del fatto che 2 anni di specializzazione in più, ma mica mi avrebbero cambiato la vita. Ho elencato i miei 10 tirocini svolti fino ad ora. Ho omesso di avere tanta esperienza. Lavoro in sala da 5 anni. 2 piatti sul braccio sinistro, 3 sul destro. La più veloce tra le colleghe. La più apprezzata dai clienti. Inizio subito. L'antipasto della casa di questa sera è una specialità dello chef e si compone di giovani in fila che aspettano il loro turno in silenzio. Vuole aggiungere del sale? Certo, con sale è più saporito. Per primo potreste lasciare quelle poltrone che hanno preso la forma del vostro sedere e l'odore della vostra di pelle ormai? Secondi, più a nessuno. Il dolce lo abbiamo terminato, c'è rimasto solo l'amaro. In bocca. Quanti caffè? Di quelli ne abbiamo una scorta, per restare bene allerta, che non si sa mai. Il conto ve lo porto subito. E sarà salato, come l'antipasto, per un servizio non di qualità. E la mancia, tenetevela pure. Tanto in questo paese non servirà. Come dire, quando in una discussione tra me e un mio collega italiano che lavora sullo stesso campo, ci sono due parti della discussione, due fasi. La prima è quella razionale sui costi e benefici di vivere e lavorare all'estero. Cioè, quanto ti costa la vita? Quanto ti pagano? Che tipo di condizioni hai? Quali sono le tue mansioni? Quanto lavori al giorno? Eccetera, eccetera. Cioè, questa è la prima chiacchierata. E su questa chiacchierata l'estero, o almeno il mio estero, cioè Amsterdam, vince. Dopo che lavori gratis un anno e che neanche ti senti trattato con grande considerazione per il lavoro che hai fatto, prendi la valigia e te ne vai. Ho scelto quindi la Francia. Ho fatto domande di lavoro, ovviamente, non mi è capitato a caso, ho fatto domande strategiche di lavoro e le ho fatte sia in Olanda che in Italia. Mi avevano offerto un posto di dottorando senza borsa, cioè non retribuito, senza lavoro a Milano. Ho deciso in modo rapido, seppur non in dolore, ho deciso in modo rapido di rimanere in Olanda. E fino all'altro ieri non ci campavo né del teatro né di altro. E adesso sta diventando un po' un lavoro per me e un lavoro occasionale per qualcuno di noi che si occupa della grafica, dell'amministrazione, dell'ufficio stampa, di queste funzioni. Il resto è lavoro volontario. In tutto questo devi fare un enorme lavoro di legittimazione. Cioè, tu sei ventenne, arrivi in un posto che naturalmente non è tuo, tu devi cercare di dimostrare che il tuo progetto e può farcela. Devi saper distribuire il tuo film, conoscere di marketing web, di distribuzione, di diritti d'autore, far firmare per i diritti d'immagine, devi saperne un po' di giurisprudenza, devi saper usare una telecamera, devi saper montare, devi saper almeno ritoccare un po' le immagini, devi saper fare qualche ritocchino agli effetti speciali, devi saper dirigere gli attori, devi saper scrivere un testo, devi saper organizzare le riprese. Il filmmaker è praticamente è più difficile che fare l'astronauta. Tutto questo però è stato durissimo, è durissimo e di nuovo farlo diventare un lavoro in Italia è un'impresa disperata. A volte mi perdo ad immaginarmi vestita con un tailleur nero, manager della mia società Cosmo Logistics. Trasportiamo cosmetici spaziali. Parlo 5 lingue diverse e contemporaneamente gestisco operai, impiegati, quadri, funzionari, direttori, direttori dei direttori, direttori dei direttori dei direttori. E poi quando torno alla realtà e mi rendo conto che nulla è cambiato, io mi sento a disagio. Abbiamo capito che ti senti a disagio. Abbiamo capito che soffri d'ansia per la creazione del tuo futuro. Fottuto futuro. Eppure molte persone si sono costruite tutto dal nulla. E anche quando hanno iniziato loro, l'impresa sembrava impossibile. Lo vuoi sapere che cos'è la creatività? Te lo dico io che cos'è la creatività. Non è partire, prendere, pretendere, andare, fare, osare, no. La creatività è accettare, adattarsi, sputeresti mai sopra ad un posto come portacaffè dell'ufficio reclami solo perché hai una laurea interstellare? Li chiamavano visionari perché avevano ideali troppo grandi, sempre fuori dagli schemi, considerati scemi, poco costruttivi. E poi, si sa, in tempi di crisi mica si può essere schizzinosi. Se tutto è immobile, ti fai due conti in tasca e ti arriva quella sola possibilità. Non hai scelta. 10 acquisti solo oggi dal mio sito di e-commerce. Mamma, allora questa idea dei cosmetici per animali funziona. Ma che cos'è questo strano odore? Odore di fritto? Fritto misto sandalo? Lo sapevo che non avrei mai dovuto comprarlo quello shampoo. Bisogna favorire i giovani, bisogna favorire i giovani. E poi quando tu, giovane, presenti un progetto serio, nessuno, e giuro, nessuno ti prende in considerazione. Perché avevo la percezione che l'Italia fosse un paese dove la... essere giovani fosse piuttosto un handicap che non una risorsa. E anche di essere un po' un problema, cosa veramente la peggior condizione per crescere è sempre quella, cioè che un giovane si senta tirato in causa solo come problema. Milioni i disoccupati in Italia, 26 milioni i disoccupati in Europa, 2 milioni 250 mila sono i NEET, solo in Italia, ovvero coloro che non lavorano, non studiano, non si formano. Immobili. E poi ci sono i giovani in emancipazione, in agitazione, figli spesso lontani, in solitaria, sparsi nel mondo. Rifanno tutto, anche la quotidianità, tra modi di vivere che non si erano mai visti. E si inventano tutto, anche il lavoro. Osano, cercano. Ogni tanto un mal di stomaco, un'emicrania che sa di solitudine, una febbre purificatrice per ricordarsi perché stanno andando. Dove? Non si sa. Ma quel dove ha già un sapore intenso. Soldi, soldi, soldi. Tutti dicono la stessa cosa. Datemi i soldi ed io farò. Datemi un desiderio, per favore. Tardi? Tardi per chi? Tardi per cosa? E che cosa vuol dire tardi? Ma il tempo esiste? Ci sono moltissime cose che non so ancora fare io. Io non... e non... e... L'elenco dei no mi uccide. No! Un morto. No! Un altro morto. No! Ci sono persone che diventano individui e persone che restano figli tutta la vita. Ho una lista di predicati che predicano male io e una lista di fatti che bene han fatto. E che mi piacciono le contraddizioni. Sono precarie, erranti e si sbagliano spesso, anche loro. Occasione, occasione. Tutti dicono la stessa cosa. Datemi un'occasione ed io farò. Ma non mi svendo, niente sconti. Datemi la volontà, per favore. Tardi? Tardi per chi? Tardi per cosa? E che cosa vuol dire tardi? Ma il tempo esiste? Ci sono moltissime cose che so fare io. Io... E poi... L'elenco dei sì mi santifica. Son martire, ma per la felicità di nessuno tranne che la mia. La lotta per l'individuazione è dura, è atroce, è una novità, è una nuova età. 3.000 sono i giovani under 30 che hanno aperto un'impresa nel primo trimestre del 2013 nel nostro paese, contro i 2.600 coetanei assunti come dipendenti. In Italia vengono presentati ogni anno circa 1.000 nuovi progetti di impresa e 8.000 sono le start-up attive sul territorio. Questa poi non solo la secchia, cioè questa... La suoni? Certo, perché ha un coro. È un coro fatto da persone singole che hanno voci diverse, caratteri diversi, ma che insieme fanno una cosa, fanno armonia. Questa è una paglia di carta, che è un principio della celluloide. Sono due famiglie delle paglie, le paglie e le paglie di carta, che vengono proprio dalla celluloide, che è la base della carta. Sembra pelle. Ed è un portale web dove noi facciamo incontrare clienti privati che hanno bisogno di un servizio per la casa e aziende, artigiani, che possono fornire questi servizi. Avevo voglia di cambiare tipologia di lavoro, passare da una grande azienda a creare qualcosa di mio. L'Italia non è un paese facilissimo. Questo non vuol dire che non ci sono opportunità. Uno deve mettersi in gioco. Noi partiamo da zero, nessuno dei due aveva del capitale. Abbiamo detto, noi iniziamo a fare dei lavori e quello che guadagniamo con questi lavori lo reinvestiamo. Il fatto di aver aperto un mio brand è l'alternativa. Il tempo zero richiede che tu prima abbia avuto un'idea. Da quel momento rientri nella fase di ricerca e sviluppo, che devi sapere chi vuoi vendere, quanto vuoi vendere, chi produce nella tua azienda, chi vende, chi fa cosa. E dopo c'è invece la parte di ricerca e sviluppo, invece, nella quale sei pro a confronto col mercato. Nel mercato di oggi c'è lo svantaggio che non hai più posto fisso, ma anche il vantaggio che non hai più posto fisso, cioè che puoi cambiare facilmente e socialmente non è una tragedia se ti reinventi. Quando crei qualcosa devi essere all'interno, cioè devi crederci così tanto che quasi ti pare reale. Perché è tutto possibile ancora. Matteo, 24 anni, inventore dell'Intuitive Creative Cards, una sintesi di design, numerologia, tarocchi e psicologia in grado di far emergere il lato creativo di ogni persona. Se vi piacciono le fiabe, Elisabetta si è inventata Fiabe su misura, fiabe inedite scritte su abiti originali, e Marcella ha creato Fiabe per dire, fiabe personalizzate per dire qualcosa a qualcuno. Monica e Matteo hanno una passione, l'antiquariato, e adesso hanno anche un lavoro. Si sono inventati il tour operator per gli appassionati di mercatini. Avete perso il vostro cane? Non disperate. Ci pensano loro, Luca e Andrea. A Bergamo hanno aperto la Chiappe Animali e assieme a Napoleone, un setter specializzato nella ricerca dei cani come lui, cercano il cane, lo trovano, te lo portano a casa. Nicole, attrice, 30 anni, dice: se la gente non va a teatro, il teatro va dalla gente. È la fondatrice di Teatro a Domicilio. Giovanna e Simona consegnano colazioni casa per casa tutti i giorni, ma a 60 solo la domenica. Michele ha 23 anni, studia al Politecnico di Milano, deve ancora laurearsi, non ha esperienza, non ha curriculum, non ha lavorato per nessun gigante e dice: perché dovrei preoccuparmi del mio futuro? Anche in Google Mail ci sono delle falle. Le ha scoperte lui. Lavori nuovi per chi ama i bambini. Tagesmutter, nido condominiale. Aiuta mamma, molto ben pagato. Family manager, è un po' impegnativo. Vendo di più, vendo meglio. Se mi faccio aiutare da un esperto in marketing olfattivo. Amore, stasera sono stanca. Io non faccio nulla. Cucini tu. Anzi, meglio di no. Chiamiamo Francesco, chef a domicilio. Ti va a fare la spesa, ti cucina a casa. Dovete tosare l'erba in giardino? perché non farlo con metodi naturali? Pecora in affitto. È un'idea francese, ma si sta espandendo in tutta Europa. A Carlo piace viaggiare. L'ha sempre fatto per piacere. Ora è diventato un lavoro. Porta le persone nei luoghi che ha esplorato in passato. Viaggiaconcarlo.it. Fabiana, 30 anni, felice e realizzata in Brasile, dice: in Italia ci si lamenta troppo. La società vuole che tu lavori, vuole che tu guadagni, vuole che tu abbia una sicurezza, ma allo stesso tempo te la toglie. Mai avuto un buon voto in matematica, ma mai, due di chimica, ed era un disastro, finché ti scardini da quello che è la famiglia, da quello che è la società, da quello che sono gli amici. E questo anche per dire che non c'è mai un limite a scoprire che cosa si vuole fare. Il primo passo è cosa non si vuole fare. Non ricercare la perfezione. Permettersi di sbagliare. Crisi. E pensi subito ad un problema. Ma raramente la vedi come un'opportunità. La precarietà ci contagia, ci mette in crisi. Si abbassano le difese immunitarie e ci lamentiamo nel dolore. Ma non abbiamo bisogno di farmaci, solo di caffè, per stare svegli. Che poi il treno passa e io non lo vedo, e io non lo prendo, e io... Questa cosa dei treni mi ha sempre incuriosita, perché normalmente io compro un biglietto, io decido dove andare, a che ora partire, cosa portare, se andare sola o accompagnata. E invece questa cosa, che poi magari un treno che non avevi previsto un giorno ti passa davanti mentre non sei in stazione, che è lì che normalmente vai a prendere il treno. E invece no. Questo passa quando sei in giro per la città e ti fermi per bere un caffè in un bar e conosci quella persona che... Lo leggi, quella frase che... O vedi quella cosa... Subito, non lo capisci, che quella persona, quella frase, quella cosa in realtà non sono persone, frasi, cose, ma per te sono treni. Treni pieni di bagagli e di gente che non conosci. Treni. Ci sono persone che non sono persone, sono treni. E ti trascinano, ti portano via, là dove tu non avresti mai pensato di arrivare, o meglio ancora, là dove tu hai sempre desiderato di andare. Treni. Quando il treno passa e tu lo prendi senza pensarci troppo, ti sembra domenica pomeriggio, col sole alto, i pensieri leggeri. Stai viaggiando dentro un'opportunità. Ecco, quell'opportunità a volte è una persona, una frase, una cosa, una casa. È che il treno è così. Ti fa sentire a casa nel mondo e ti fa sentire che il mondo è una casa e che ti accoglie finalmente. Le opportunità sono treni. Che non sai dove ti portano, ma tu vai senza biglietto, senza bagagli, non hai appuntamenti perché li hai disdetti e non hai riferimenti. Treni veloci, treni, voci, creo, tempo presente, ideare, fare, inventare, andare all'infinito. Treni voci, treni veloci, Siamo come dei Freccia Rossa. Anzi no, siamo come Italo, perché siamo tutti Italo qui. Quando creiamo, viaggiamo in una carrozza executive, poltroncina super comfort, aperitivo di benvenuto, posto finestrino, vista colline sempreverdi e un cielo limpido. Tremo, fremo, treno, freno, no, freno, no. Vado, corro, mi misuro, mi usuro. Non ho bagaglio, non ho biglietto, non ho nulla, quindi ho tutto, sono pronta. Fatemi salire! Da grande voglio fare la giornalista. Da grande voglio fare la posso insegnare ad un giovane? Io posso insegnare solo ad aver fiducia, credere nella vita, non dire sempre ma tanto sono così e tutto così e tutto così. Sì, tante cose non vanno, però se tu le guardi nel modo migliore, qualche cosa di buono viene fuori, così nel rapporto con le persone e così nei lavori. Perlomeno io dare fiducia, insegnare a dare fiducia nelle persone. Vado? Siamo partiti. Sì, ma tu chi sei? Sono io, ciao a tutti, sono Federico. Devo dire dove abito. Ramo dei forestieri. E 10 km tra due campanili sono una distanza incommensurabile. Vado? Sì, ma tu chi sei? Sono io. Siamo partiti. Non mi va di passare l'unica vita che ho da vivere ad aspettare che il paese si sblocchi. Beato te che sei all'estero. Però il lavoro non è tutto, giusto?